Buonasera a tutti e tutte, bentrovati e bentrovate ad Entropia Massima. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e abbiamo con noi questa sera Alberto che ci saluta. Ciao. E quindi, come bene potete intuire, la trasmissione questa sera, il ciclo di questa sera è quello di economia e ambiente che Alberto sta curando quest'anno. E oggi parleremo di prospettive e quindi ci proietteremo in avanti su scenari futuribili, vediamo che cosa sta succedendo, cosa potrebbe succedere. Quindi, come dire, in qualche modo nella puntata di oggi faremo un po' una sintesi di tutto quello che abbiamo detto e proveremo a dire qualcosa di prospettiva. Giusto, Alberto? Ti cedo subito la parola. Esatto. Allora, ho pensato che di prendere alcuni testi che sono usciti negli ultimi due mesi, negli ultimi giorni, e vedere un po' come si imposta il futuro, non un futuro, direi il futuro immediato, cioè quello che dovremmo fare nei prossimi anni. E fra l'altro sarà interessante, una volta che il programma del nuovo governo sarà reso pubblico completamente, senza possibilità di ulteriori correzioni, quanto si colloca in queste prospettive. Quindi è un compitino che ciascun ascoltatore può risolvere, cioè prendere quello che diciamo oggi, stasera, e controllare i 10 obiettivi, eccetera. E auguri. Auguri a chi dovrà controllare. Non lo so, gli auguri servono a un sacco di persone. Secondo quello che ho letto finora, insomma, siamo nei guai, detto in altri termini. Bene, allora, il primo di questi testi è uscito su questa rivista che traduce testi di tutto il mondo da varie lingue, che si chiama Internazionale, e il testo si chiama Come sfavare 10 miliardi di persone? Punto interrogativo. E questo è il problema. Però c'è già un errore, secondo me, nella copertina, perché dice abbiamo 30 anni per capirlo, nel senso che, come al solito, si dice cosa succede nel 2050, e in realtà invece il problema è immediato, perché da adesso al 2050 dovremo modificare l'ambiente se vogliamo realmente capire l'ambiente, inteso l'ambiente incluso gli uomini, no? E quindi vedere quello che si deve fare. Quindi discutere sulle prospettive è estremamente importante e urgente, secondo me. Allora, questo articolo parte un po' da lontano, cioè prende due personaggi, due esperti, un certo Vogt e un certo Borlaug, che risalgono ai primi anni del secolo, nel senso avanti, parecchi anni fa, metà del secolo passato, diciamo, però li identifica come capostipiti di due categorie esperti, cioè i profeti e i maghi. Allora, i profeti sono quelli che, diciamo, abbastanza con molto realismo cercano di vedere la situazione dell'ambiente, del pianeta, i danni che abbiamo arrecato, quelli che stiamo arrecando, e cercano di capire cosa sta per succedere. I maghi, invece, hanno l'atteggiamento che viene definito nell'articolo tecno-ottimista. Cioè, in sostanza, sottolineano continuamente che abbiamo nuove soluzioni tecnologiche che in ogni caso ci permettono di, eccetera. Quindi, ripeto, però, questi hanno cominciato a fare questa divaricazione, ripeto, già parecchie decine di anni fa, però questo schematismo temo sia ancora valido oggi, perché molti governi stanno sul tecno-ottimismo, no? E molti esperti, gli ambientalisti, che non si chiamano ormai più come catastrofisti, si chiamano persone che hanno i piedi per terra, molto realistiche, che denunciano continuamente la situazione in cui ci troviamo. Comunque il primo profeta ha scritto un libro nel 1948 che si chiamava La strada per la sopravvivenza. Quindi è uno dei primissimi testi che denunciava la situazione. 48, stiamo parlando dei primissimi anni subito dopo la guerra mondiale. E invece insieme, diciamo, i tecno-ottimisti vengono in genere fatti risalire alla cosiddetta rivoluzione verde, che a sua volta comincia nel 1949. Quindi la scelta di queste due capostipiti è abbastanza significativa. E allora il discorso come si imposta? Allora, sono una decina di pagine, quindi adesso facciamo un'estrema sintesi, però gli ambientalisti dicono noi avremo bisogno di aumentare la produzione agricola in misura piuttosto rilevante. Una delle più recenti indagini dice almeno del 50-100%, cioè una misura compresa tra il 50 e il 100%. Questo significa che noi stiamo già invece in una situazione in cui i terreni non sono più sufficienti, oppure molti sono ormai disastrati, nel senso sono inquinati, avvelenati da varie sostanze chimiche, e quindi la domanda che si pone immediatamente è come avere la possibilità di un incremento così forte. Ovviamente la risposta che viene data dai maghi è che avremo tante tecnologie che ci permetteranno di produrre molto di più con delle soluzioni importanti. E purtroppo però poi l'analisi prosegue e fa vedere che tutte le soluzioni finora trovate a livello scientifico, che si credeva di aver trovato a livello scientifico, in particolare proprio la cosiddetta rivoluzione verde, sono stati dei fallimenti terribili, perché è vero che hanno dato luogo a dei semi particolarmente resistenti, eccetera, la famosa storia della Monsanto di cui abbiamo parlato più volte, però poi i rendimenti sul terreno e i danni che questi, dal punto di vista delle sostanze usate per alimentare le nuove tecnologie, i danni sono stati mostruosamente elevati. E ancora non esistono in realtà delle linee di ricerca scientifica che permettano di identificare una capacità di produzione, quindi semi, uso dei terreni, uso dei terreni non oggi coltivabili, eccetera eccetera, e tutte queste soluzioni teoricamente possibili ancora non sono definite. Quindi questa è la situazione, molto pesante. E l'altro aspetto invece, dal punto di vista dell'inquinamento e via dicendo, cioè quando uno prende la situazione dal punto di vista ambientale, ovviamente i danni che abbiamo già recato sono mostruosamente elevati, ma soprattutto anche il passaggio dei 10 miliardi, cioè passare dagli attuali 7,6 miliardi a quasi 10, anche se qualche proiezione dell'ONU dice che comincerà una riduzione della popolazione. Il problema sono in questi prossimi 30 anni questi 3 miliardi di persone in più, perché è estremamente difficile pensare di mettere a coltura altri terreni, è estremamente difficile vedere delle strade che si stanno aprendo in questo momento, per esempio per quanto riguarda, non so, pensiamo alla soia che viene prodotta in gran parte in America Latina e poi esportata, eccetera. E che si fa? Si continua a produrre soia, si continua a distruggere l'Amazzonia e si aumenta la produzione di soia esportata, quindi che ha dei costi ambientali, cioè l'inquinamento da trasporto, estremamente elevati, e soprattutto la soia ha in utilizzazioni principalmente industriali, il che significa una certa modalità di alimentazione. E pensare a questo tipo di alimentazione nelle popolazioni dell'India, nelle centinaia di milioni di persone in Cina e in tutta una parte dell'Africa è impensabile. Cioè pensare che la soluzione sia aumentare la distribuzione di prodotti industriali all'interno dei paesi africani, che oltretutto per poco che sarebbe assorbibile sarebbe prodotto da un certo numero molto ristretto di multinazionali che continuerebbero a, come dire, a controllare l'alimentazione e via dicendo, quindi a moltiplicare questi meccanismi di tipo coloniale. Quindi il discorso, quindi c'è, siamo di fronte a una divaricazione molto pesante, molto consistente, e questo dibattito così separato non ha molto senso, nel senso che significa capire due linee di scritturazione e ci stanno decine di nomine in un settore e nell'altro, però il problema è che bisognerebbe soluzione per soluzione, cioè combinazione di fattori per combinazione di fattori, prendere decisioni e soprattutto vedere quali sono i paesi che decidono di modificare la loro struttura produttiva per passare a un modello completamente diverso. Ecco, quindi questo è per accennare. Il testo porta, arriva fino ai nostri giorni naturalmente, e per ognuna delle due posizioni fa capire qual è la situazione a cui siamo arrivati, fa capire lo stato delle ricerche. Per esempio c'è tutta una parte che credo di aver capito solo in parte, data io sono un economista, e per esempio questo C4, cioè il problema dell'azoto che deve essere messo a disposizione delle piante e quindi la possibilità di distribuire questo azoto in maniera diversa con delle capacità di penetrazione delle piante, di assorbimento da parte delle piante più raffinate e via dicendo, però contemporaneamente è un prodotto chimico e che viene realizzato a livello chimico da un lato. Dall'altro, se noi continuiamo a, anche con delle soluzioni scientificamente più avanzate, poi i rifiuti, cioè l'azoto che è stato distribuito in questi terreni poi va a finire nei fiumi e quindi nei mari, alimentando tutta una serie di crescita assolutamente assurda di piante marine alimentate dallo stesso azoto, è chiaro che stiamo ancora di fronte a delle soluzioni che non corrispondono a un riequilibrio del pianeta. D'altra parte, come dire, dobbiamo sempre ricordare, quando si fanno questi discorsi in prospettiva, che siamo nuovamente al di sopra degli 800 milioni di persone che non hanno un'alimentazione sufficiente. E allora solo questo fatto, cioè 1 miliardo di persone grosso modo che deve ancora essere alimentato come alimentazione base, quindi con tutte le difficoltà, e soprattutto col fatto che abbiamo 50 anni di esperienza ormai di tentativi per ridurre questa cifra, e questa cifra continua implacabilmente a aumentare o comunque essere al di sopra di questi 800 milioni. Ecco, allora queste sono, non sono, come dire, catastrofismi, sono semplicemente questi sono i dati, e anche gli ultimi 15 anni, cioè l'obiettivo del quindicennio che la FAO ha detto essere stato raggiunto, superato eccetera, poi si è rivelato in giro di 2 anni un'affermazione errata. Ecco, quindi ognuno di questi problemi, volevo chiederti, questi queste soluzioni prospettate, no? da parte dei maghi, quindi da parte dei, sì, dei tecnologi, non prendono in considerazione quindi il cambio di un modello di consumi, per esempio, cioè a parità di modello di consumi e tenendo per buona l'attuale crescita economica e demografica, propongono semplicemente l'efficientamento delle soluzioni tecnologiche e mai un cambio invece di passo a livello di consumi? Allora è un po' difficile risponderti, perché si prevedono una qualche modifica, però va nella direzione sbagliata, non so come dire, cioè un'intensificazione del modello attuale con modalità probabilmente molto diverse nel giro di pochi anni, però come dire, con caratteristiche ed effetti abbastanza simili a quelli verificati nel passato. Questo è il problema, cioè quando uno va a vedere poi le singole linee di ricerca scientifica, le singole soluzioni più o meno previste o delineate, il discorso è sempre lo stesso. Quindi è questo il problema grosso. Dall'altra parte, il discorso del modello di consumo è molto difficile perché è molto complesso. Cioè, quali sono le modalità di consumo nella parte ricca della popolazione mondiale? Allora, uno dei problemi che suscita questa analisi dice c'è un qualche aumento della classe media internazionale, cioè in sostanza anche in Cina, che pure ha 1,2 miliardi di persone, c'ha un po' più media, classe media di quella che aveva qualche anno fa, e questo vale per l'India, vale per una serie di altri paesi. Allora, questo che cosa significa? Che questi stanno, come primissima reazione al fatto di aver cominciato a guadagnare un po' di più, cominciano ad adottare i modelli di consumo delle classi ricche dei paesi del, diciamo, del nord, per capirci. Allora, qual è il vantaggio? Cioè, non c'è un vantaggio dal punto di vista delle risorse, perché le risorse del pianeta sono finite, cioè sono definite, determinate, non possiamo aumentarle, l'acqua è quella, eccetera. Quindi il problema grosso è il come vengono utilizzate queste cose. Questo vale per i ricchi, per la classe media e per la classe, diciamo, più povera in aumento. Allora prendiamoci una piccola pausa e dopo questo primo terzo di trasmissione ci ascoltiamo un brano di Simone Cristicchi. Genova 2001, vertice mondiale. Sono un poliziotto del reparto celere, pronto alla guerra, ma più che una battaglia strada sembra un carnevale. Tutti questi pacifisti del cazzo che si fanno chiamare popolo di Seattle, massa di straccioni con bandiere a covaleni che solo a guardarli in faccia già divento paonazzo. Sono 300.000 e vogliono cambiare il mondo, e pensano che per cambiare basta un giro tondo. Io non so nemmeno chi ha ragione e chi ha torto, ma puoi vedere che a sto giro qui ci scappa il morto. Ognuno sceglie la sua forma di protesta, c'è chi ha steso fili di mutande fuori alla finestra, c'è chi vuole oltrepassare la zona rossa, c'è chi canta avanti popolo alla riscossa. Genova brucia, sono autorizzato dallo Stato, eseguire gli ordini non è mica un reato, e quindi Genova brucia, non faccio distinzioni, donne, vecchie e bambini, potrebbe essere tuo zio Carlo Giuliani. Genova brucia, Genova brucia, Genova brucia. Mi ricordo una missione un po' speciale, Genova 2001, squilla il cellulare, con la soleria di faccetta nera. Sono fascista, non credo sia una cosa di cui mi debba vergognare. Secchi, parassiti e comunisti, ci mancava pure quella banda di teppisti, con la tuta nera ed il passamontagna in testa, con le spranghe fanno a pezzi tutto e ci rovinano la festa. Parte la carica, voi ve la date a gambe, temete il manganello, la pallottola vagante. Tutte bianche si tingono di sangue, sudore, lacrimogeni sparati sulla gente. Tu che ti rifugi nel cortile, prenderai più botte che se fossi nato in Cile. La Costituzione come carta igienica, usala per pulirti il culo o tamponarti le ferite. Genova brucia, sono autorizzato dallo mano ciao e nemmeno il tuo avvocato. Canta la mia figlia stocca, siamo a Bolzaneto. E allora torniamo in diretta ad Entropia Massima. 06 49 17 50 è il numero per intervenire. Stiamo parlando di economia ed ambiente, abbiamo fatto una prima parte sulle prospettive, continuiamo su questa falsa riga, ma adesso introduciamo un tema forse che ha a che fare con il modello di consumo in qualche modo. Allora, il testo successivo che ho selezionato per questa sera è intitolato "I vegani salveranno il mondo?", punto interrogativo. Cioè, sono sempre di più le persone che evitano gli alimenti derivati dagli animali. Ora, credo che per alcuni, e dice, secondo alcuni è una moda, per altri una scelta che garantisce un futuro al pianeta. Ecco, quindi allora vorrei essere chiaro, questo articolo ad esempio parla pochissimo dei discorsi tipici dei vegani, cioè non vogliamo infliggere sofferenze agli animali, quindi perché lo vede come l'altro articolo, cioè qual è la prospettiva e come sarebbe più conveniente dal punto di vista dell'alimentazione dei 3 miliardi in più di persone, sarebbe conveniente sostituire agli allevamenti e alla pesca, cioè a tutte le sostanze diciamo che scartano i vegani, alla coltivazione. E c'è una serie di come dire, di dati. A me ha colpito uno in particolare, ma è molto banale, insomma, cioè se una a parità di spazio occupato un albero di mele tira fuori 160 kg di mele all'anno, no? Mentre per in termini di carne, per dare l'equivalente eccetera, ci vuole molto più spazio. Ecco, allora il discorso è, bisognerebbe cambiare ovviamente la struttura complessiva dell'alimentazione e vengono fatti una serie, qui l'articolo è molto, mi sembra molto serio, molto puntuale, anzitutto perché la scrittrice, la giornalista ha raccontato la sua esperienza, poi ha lasciato perdere, poi ha ricominciato, insomma, cioè è una che sta girando intorno alle, e soprattutto quindi ha dedicato una parte molto consistente dell'articolo a far capire che ogni alimento, ogni soluzione di tipo vegano in realtà poi deve essere integrata, perché si perdono, il vegano rigido, diciamo rispettoso, non ha certe sostanze. Allora, questo discorso a me risulta un po' difficile perché non capisco bene, cioè capisco il nome della sostanza, però poi non so se la soluzione è offerta, e quindi parla ampiamente di quali integratori sono necessari, come vengono prodotti, se sono utili, eccetera, eccetera. Sicuramente è interessante parlare degli integratori e vedere come sono prodotti. Sì, cioè, molto... Però va detto che variando opportunamente l'alimentazione, anche un vegano può avere, sì, però, aspetta, tutti attento, i nutrienti. Attento, perché questo è trattato, cioè non in tutti i posti vengono coltivate le piante che integrano, non so se è chiaro, cioè chiaro. Qui c'è, allora, qui c'è un i broccoletti, eccetera. Però i broccoletti ce l'hai in un certo clima e sarà una serie di, qui sta parlando invece in senso ampio, no? Cioè diciamo con il pianeta come sfondo, e quindi fa un discorso invece come si fa a sostituire la carne, se è opportuno, se è urgente, se dobbiamo farlo il più presto possibile, e sostituirlo però allora con una visione vegana che a sua volta deve essere però corretta, integrata, eccetera, eccetera. Ripeto, sta attento, non sto parteggiando per questo tipo di soluzione, sto semplicemente riferendo questa maniera di affrontare il problema, no? Io non ho gli elementi sufficienti, cioè purtroppo sto ancora in una situazione che mangio meno, mangio meno certe cose, però non sono assolutamente sulla posizione del vegano. Anzi, come decrescente, l'idea di mangiare bene, insomma, in certi piatti mi sembra una cosa particolarmente importante. Però dal punto di vista ambientale io mi rendo perfettamente conto che, pur avendo un'alimentazione piuttosto verificata, controllata, attenta, eccetera, non è sufficiente per risolvere i problemi, neanche moltiplicata, diciamo, per tutti gli abitanti del pianeta, non è sufficiente questo tipo di soluzione per risolvere i problemi di cui parlavamo prima. Quindi questo è, per esempio, questo articolo sottolinea una cosa che molti sanno, ma che in pratica delle emissioni di gas serra, l'insieme degli allevamenti grosso modo rappresenta il 14%. Quindi è vero che il grosso sono tutti quanti i combustibili fossili, il carbone, cioè tutto esatto, però il traffico, le auto, tutto giusto, però il 14% sono le emissioni di gas derivanti dalla masticazione, dalla digestione degli animali. Allora, dal punto di vista vegano, l'idea di eliminarli, a parte sempre la parte della sofferenza, eccetera, eccetera, il cambiamento significherebbe già incidere immediatamente, ridurre immediatamente uno dei gas serra. E quindi ha un senso, insomma, interessante, molto importante da tenere presente anche questa componente. Quindi si suggerisce di diminuire gli allevamenti sostanzialmente? Beh, dal punto di vista vegano significa eliminarli, perché questo, se tu ci pensi, non so, tu pensa alle grandi praterie, alle zone, molti, diciamo, terreni vasti, diciamo, dal Texas fino alla... tempo permettendo, cioè clima permettendo, che a sua volta è in fase di modifica, se si eliminassero tutti gli allevamenti bradi, eccetera, tu avresti un sacco di terra che finalmente potresti dedicare a delle altre coltivazioni. E soprattutto tieni sempre conto che l'allevamento significa che gli animali mangiano erba, comunque chiamata, eccetera. Quell'erba potrebbe essere coltivata in maniera da alimentare esseri umani. Quindi, sì, c'era una statistica che ho letto tempo fa, sì, che parlava di un rapporto 1 a 8, sì, tra 1 a 9 o anche 1 a 10 talvolta. Esatto. Perché, tra, diciamo... cioè, se noi riuscissimo a eliminare la carne in mezzo, cioè mangiassimo una certa quantità di erbe, senza entrare nel dettaglio, noi assorbiremmo molte più sostanze nutritizie delle, quindi questo discorso, indipendentemente dai vegani, deve essere fatto. Non so se è chiaro, cioè non c'è bisogno di avere una filosofia a parte. Chiaro, è un discorso che deve essere fatto, però questo, come capisci, significa modificare, per esempio, l'economia di interi paesi africani, di interi paesi negli Stati Uniti, insomma, cioè è una struttura che colpisce sia al nord che al sud del mondo. E ancora non c'è traccia di questo tipo di soluzione. Anche in Cina, da quelle letture che sto facendo più di recente, questo modello è intatto. Quindi il fatto della produzione sia, diciamo, vegetale, è tutta industrializzata, eccetera, eccetera. Quindi stanno imitando sostanzialmente il modello, diciamo, statunitense, per capirci. Quindi c'è ancora una persistenza molto forte, quindi, che deve essere tenuta presente. Quindi quando si fanno le campagne contro le auto, dobbiamo farne una analoga contro il tipo di allevamento e come viene fatto, eccetera. Quindi è un discorso complicato, ovviamente, no? Però questo articolo mi sembra che chiarisca molto bene i passaggi, cioè che, quindi magari forse se lo possiamo segnalare con precisione sul sito, vale la pena, insomma, se uno vuole approfondire, anche senza avere una specializzazione, però vuole capire come si pongono il problema, eccetera. Terzo articolo è sempre su un tema, sempre in prospettiva. Il titolo è un articolo del Le Monde Diplomatique in italiano, anche questo molto recente, stiamo parlando di marzo. Il titolo è "Perché mangiare bio?". Ecco, e ancora una volta, anche in questo caso, non si dice soltanto perché è più sano, eccetera, che va benissimo, no? però sottolinea tutta una serie di cose, cioè è meno inquinante, quindi c'è un inquinamento molto inferiore perché vengono usate in ogni caso meno sostanze o quasi nessuna sostanza. No, in questo articolo si tiene conto anche di quel minimo di sostanze chimiche che talvolta hanno i prodotti biologici, perché non sono stati immessi sul terreno dal coltivatore, ma arrivano dal terreno vicino, stanno nell'aria e via diciamo, nell'acqua. E quindi non si riesce ad avere un bio totale, è totale dal punto di vista dell'acqua, quindi l'impostazione dell'apporto di materie che non sono chimiche sicuramente, mentre c'è un minimo di rischio sempre aperto, diciamo sempre possibile, di inquinamento diciamo ambientale, cioè derivante dai terreni vicini. Questo è molto importante tenere presente, perché tutti i dati, invece questi sono i dati importanti, ce ne sono una decina che provo a sintetizzare. Allora, per essere chiari, intanto l'inquinamento da parte dell'agricoltura. In Francia 2014 87% dei corsi d'acqua controllati conteneva almeno un pesticida. E le due sostanze più trovate sono un acido da un nome complicatissimo, che è un metabolita del glifosato, e il glifosato, cioè il noto componente principio attivo dei prodotti della Monsanto, che è stato prolungato per altri 5 anni, e da cui è possibile continuare a trovarlo nei nostri campi perché l'Unione Europea ha prolungato di 5 anni questa possibilità per le aziende. Per fortuna la richiesta era 15 anni, quindi 5 anni si può considerare una vittoria, però insomma una vittoria un po' triste, diciamo, nel senso che doveva essere vietato anche da parecchi anni. E non so, un secondo tipo di dati, aumenta in tutte le colture di tipo biologico, cioè l'agroecologia, aumentano la quantità di specie vegetali, di ragni, lombrichi, coleotteri, uccelli e mammiferi. Quindi c'è un'azione positiva per tutta la differenziazione, la diversità biologica, fatta solo perché la cultura biologica attira di più, alimenta più facilmente, è più attraente diciamo per le specie animali, e alcune tipo i lombrichi sono utili per il processo di produzione. Potrei continuare nel senso di dire come, scusa? Magari lo facciamo dopo un'altra piccola pausa. Benissimo, sì. Sono a bordo del mio treno, mezzanotte in questa notte io ho mollato il freno. Il cielo è nero, vento a raffica. Un aereo ha infilato in volo un grattacielo e l'aria elettrica. Nebbia, freddo, fango a volontà per chi si muove da qua, ma noi in viaggio siamo già. Chiudi le portiere su, ora alza il volume. Assalti frontali, canta e non restare immune. Destinazione terra dove nessuno è gradi. Siamo senza armi qui e siamo tutti capi del mondo conosciuto, meglio dire sconosciuto. Viaggio verso il raduno, il più grande mai venuto. E non ho bisogno di nascondere niente nei bagni. Qui siamo fuori e camminiamo in aria come ragni. Tra questi abitati sterminati, illuminati da famiglie strette in 40 metri quadri, da ragazzi che hanno poche chance, ma sono abituati a vivere nei bassi strati. Nel mondo dei primi, primi a essere cacciati, a essere tossati e ammazzati dentro gli attentati. A Manhattan è cambiata anche la architettura, e nell'età chiamata libertà, dura, dura. Io combatto con la mia cultura, vivo in periferia, non ho mai così paura. A Manhattan è cambiata anche l'architettura, e nell'età chiamata libertà, dura, dura. Io combatto con la mia cultura, vivo in periferia, e non ho mai così paura. In periferia, i viali sono trafficati, i centri commerciali come al solito affollati, attendono clienti a porte spalancate, ma anche ondate di assalti ed imboscate. Per questo le sirene sono fisse su due note, e i vigilantes coi fucili a pompa vanno nelle strade. Sanno che è meglio controllare ogni passante, sanno che è meglio proteggere il ricco e il benestante. Sanno che nessuno ama la tasca del mercante, nessuno ama i debiti alle banche. Se anche un giorno vanno in fiamme, fate bravi, in fondo sono solo danni collaterali e non rompete più i coglioni. Burattini, in fondo siete solo mille, mille piccoli assassini, col falso terrore del sacro borseggio, quando è un sistema intero che si fonda sul saccheggio. A Manhattan è cambiata anche l'architettura, e nell'età chiamata libertà, dura, dura. Io combatto con la mia cultura, vivo in periferia, e non ho poi così paura. A Manhattan è cambiata anche l'architettura, e nell'età chiamata libertà, dura, dura. Io combatto con la mia cultura, vivo in periferia, e non ho poi così paura. Qui non ci sono obiettivi. Eccoci di nuovo in diretta con Entropia Massima, ultimo terzo di trasmissione di Economia e Ambiente. Ci eravamo interrotti sull'analisi di alcuni dati, riprendiamo da lì. Sì, allora stiamo parlando del perché mangiare bio, cioè biologico, e perché dice una cosa estremamente importante, e questo bisognerebbe averlo sempre presente, che è perché l'agricoltura biologica privilegia una copertura importante dei suoli ed evita in tal modo l'erosione. In generale i suoli delle aziende agricole biologiche presentano quantità più importanti di sostanza organica vivente, intorno a 34,7 tonnellate per ettaro di carbonio organico contro il 26,7 nel convenzionale. Cioè in sostanza, e così continua una serie di altri aspetti di questo genere, no? Allora, un altro aspetto importante, tutta la parte dell'esposizione delle donne, specie durante la gravidanza, a cibi che non siano biologici, e quindi ci sono i dati, le ricerche che stanno chiarendo questi aspetti. E ancora c'è un rispetto, ci stanno tutta la presenza di tumori maligni, che è dal 5% al 30% superiore per una serie di tumori nella popolazione che vive di agricoltura convenzionale rispetto a quella delle zone prevalentemente biologiche. Ecco, allora questo, come capisci, il discorso che si sta facendo in questo articolo non è soltanto... un ultimo elemento che mi ha colpito e che volevo richiamare è che è stata fatta nel 2009 una studio epidemiologico ancora in corso. Sembrano indicare che mangiare bio diminuirebbe del 23% il rischio di sovrappeso e del 30% quello di obesità. Quindi, come capisci, questo articolo è particolarmente, insomma, interessante, stimolante, perché chiarisce il fatto che i cibi siano più buoni e più sani, va bene, però ci sono una serie di effetti collaterali che spingerebbero verso una cultura biologica, diciamo, a ampio raggio, perché ha effetti contemporaneamente su tutta una serie di effetti. Tieni conto che, per esempio, specie negli Stati Uniti, per il tipo di cose che vengono mangiati, i vari McDonald's eccetera, questo fatto dell'obesità e soprattutto dell'obesità nei bambini è diventato un fenomeno, una malattia sociale. Ecco, quindi, mentre invece si vede che ogni volta che si fa un'analisi in una zona prevalentemente a coltivazione biologica c'è questo effetto positivo, che non è totale, cioè non limita, perché ovviamente non può essere, però è connesso. Allora, questo era sempre per finire, volevo richiamare una cosa che abbiamo detto, che mi sembra l'ultima, che abbiamo detto l'ultima volta, e che anche qua c'è un articolo interessante che spiega i vari tipi di insetti, chiamiamoli così in generale, perché gli insetti sono centinaia di specie. E il problema è quello che noi non sappiamo, cioè che nessuno sa normalmente, è che dal 1 gennaio prossimo l'Unione Europea ha cominciato a autorizzare l'utilizzazione di questo tipo di sostanza, no? Allora, questo che vuol dire? Che evidentemente c'è una connessione con la fame del mondo da una parte e dall'altra parte col fatto che dobbiamo modificare strutturalmente in profondità i livelli di alimentazione e la struttura stessa dell'alimentazione. Ok, vuoi andare in diretta? Allora, ci ha chiamato un ascoltatore che stava chiedendo, diciamo che ascoltava con interesse il discorso sul biologico, però muoveva in realtà un punto di attenzione su quelli che sono i costi degli alimenti più sani, degli alimenti biologici, e che, come sappiamo, si è creato in Occidente, parliamo dell'Italia, sì, no? Si è creato un mercato ovviamente che ha dei costi elevati e che non tutti possono permettere, cioè siamo ad un assurdo per cui ci sono masse di persone che fanno fatica a consumare bene, consumare biologico, pur sapendo che quella è una scelta corretta sia per la propria salute che per quella del pianeta. Ecco. Allora, su questo quindi l'ascoltatore si chiede se si può fare. Posso darti, perché è un discorso che all'interno dell'economia alternativa, solidale, eccetera, facciamo continuamente. Allora, non ti posso convincere, ovviamente, no? E il problema è che però devi tenere conto di una serie di elementi. Cioè, intanto, finché la produzione biologica è una piccola parte del mercato, è chiaro che i suoi costi sono più alti e quindi i prezzi dei prodotti possono essere più alti. Seconda questione, però, noi dobbiamo tenere conto del fatto che se uno riuscisse veramente ad avere un'alimentazione sostanzialmente biologica, cioè con larga maggioranza biologica, le sue spese mediche diminuirebbero drasticamente. Allora, vale la pena di spendere un po' di più, però è chiaro che questo richiederebbe una persona capace di mettere insieme il suo bilancio sanitario, diciamo, di spese per malattie e quello diciamo dell'alimentazione quotidiana. Certo, questo significa che se uno è molto povero è chiaro che non si può permettere questi lussi, eccetera eccetera, però quel povero muore anche più spesso e più spesso è malato perché non si cura abbastanza e non spende abbastanza per la medicina e via dicendo. Cioè, in sostanza, dobbiamo fare molta attenzione a distinguere tra la situazione sociale, cioè del livello generale dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza all'alimentazione, dalle scelte che uno può fare. Io devo dire, come dire, da economista, ritengo che questa scelta è molto conveniente, anche spendendo relativamente di più, eccetera eccetera. Poi ci sono, quest'ultima battuta, ci sono una serie di cose che si stanno facendo, tipo organizzare dei mercati alternativi per il biologico, e quindi non solo quello, diciamo, dei gruppi di acquisti solidali, eccetera, che sono il mercato, però, perché a livello di gruppi si può fare il discorso del confronto con le spese sanitarie, eccetera eccetera, e però quello che è molto importante è organizzare la sanità, cioè organizzare il mercato normale, cioè quello diffuso, eccetera. E noi, per esempio, non ci rendiamo conto che in questo momento a Roma, faccio un esempio molto banale, tutti i mercati rionali sono in crisi, cioè se uno gira un po' in un mercatino e questo si può fare perché ce n'è sempre uno vicino casa, diciamo, e ci sono botteghe e botteghe chiuse. Allora è possibile che non si riesce a ottenere da un ente locale che tutte quelle botteghe vuote o abbandonate eccetera siano destinate